Oggi è l'anniversario, sono passati 40 anni da quando un anarchico, Francesco Serantini, detto Franco, venne massacrato di botte dalla polizia a Pisa e morì poi 2 giorni dopo in carcere. Volevamo raccontare la sua storia, ricordare che cosa è successo, perché poi tante di queste morti le abbiamo viste negli anni successivi. L'ultima è quella di Cucchi, che ha avuto un destino analogo, con modalità analoghe a quelle dell'omicidio di Franco, a dimostrazione del fatto che quando su queste cose c'è impunità da parte della polizia, c'è impunità per sempre, e l'impunità su questo tipo di crimini polizieschi poi la pagano tutti, anche i non compagni. Volevamo anche ricordare che il 12 maggio, cioè sabato prossimo, a Pisa ci sarà una manifestazione nazionale anarchica per ricordare Franco Serrantini, ma anche per protestare contro le leggi antianarchiche, contro la repressione che sempre più pesante si sta accanendo contro i compagni che lottano contro il TAV, contro i compagni che fanno le manifestazioni, le condanne assurde che ci sono state per gli incidenti del 15 ottobre a Roma, 5 anni di galera per il lancio di un sasso è qualcosa di incredibile, oltre che di assurdo da un punto di vista giuridico. E anche per ricordare la situazione di repressione a cui sono soggetti e sottoposti i migranti con i CIE, con questi moderni lager e con l'approccio che razzista che lo Stato dimostra sempre più marcato. Ovviamente non nell'ambito delle rivendicazioni che la manifestazione porta avanti, non manca la denuncia delle politiche antiproletarie portate avanti dal governo che con la scusa della crisi sta restringendo gli spazi di vivibilità per tutte e tutti. Tornando alla memoria e al discorso di Franco Serrantini, pensavo fosse opportuno fare un minimo di quadro sulla situazione a Pisa per capire in che contesto poi e quelle motivazioni di tanta brutalità e violenza poliziesca nei confronti di un anarchico. A Pisa la tradizione anarchica è sempre stata molto forte. Intorno al Biennio Rosso, prima dell'avvento del fascismo in Italia, a Pisa si stampava un settimanale anarchico che tirava 5.000 copie. C'erano 1.500 sovversivi schedati. Negli stessi anni usciva un quotidiano anarchico, Umanità Nova, tanto per dare l'idea del peso e delle dimensioni del movimento in quell'insieme. Nel 1945, immediatamente dopo la fine della guerra, ma anche durante la guerra, attraverso gruppi di resistenza, gli anarchici sono sempre stati presenti in città e tant'è che immediatamente dopo la liberazione rinaugurarono circoli e sedi. C'era una sede storica al centro di Pisa, a via San Martino, è stata fino a tutti gli anni 70 la sede degli anarchici e nel 67-68 è diventata la sede degli studenti. Nel 67, oltre ai vecchi anarchici, c'erano anche i giovani che si avvicinavano in quegli anni col tipo di rivolgimento sociale e culturale che il 68 ha rappresentato in Italia e ha rappresentato in una città universitaria come Pisa. Pisa, città universitaria che ospitava anche molti studenti greci, e nel 1967 ci fu un colpo di Stato in Grecia, un colpo di Stato dei colonnelli. Gli anarchici, che già all'epoca solidarizzavano con gli oppressi spagnoli e portoghesi, erano oppressi dalla dittatura franchista che aveva battuto la rivoluzione fatta prevalentemente dagli anarchici in Spagna e di Salazar in Portogallo, avevano questa rete di appoggio e sostegno internazionale in cui si inserirono anche gli studenti greci a Pisa che cominciarono a frequentare per questo motivo la sede anarchica insieme a altri studenti. Contemporaneamente cominciavano gli scontri col Movimento Sociale Italiano che all'università organizzava manifestazioni in sostegno della Grecia, arrivò a occupare in un paio di occasioni la facoltà di scienze politiche, di lingue, non di scienze politiche. Ci furono risse, in un'occasione fu ferito un compagno anarchico, gli spararono i fascisti, Michele Olivieri, ci fu manifestazioni di protesta. Contemporaneamente la polizia cominciava a costruire quella che è stata poi la montatura per la strage di Stato, coinvolgendo alcuni pisani, Faccioli, Braschi, negli attentati alla Fiera Campionaria. È stata una cosa, così come quella che ha riguardato Valpreda pochi mesi dopo, assolutamente campata per aria. Serviva tirare in mezzo gli anarchici e gli attentati, e i compagni di Pisa, della Federazione Anarchica Pisana, vennero tirati in mezzo a questa cosa degli attentati. Poi la cosa si risolse come per Piazza Fontana, nulla di fatto, ma all'epoca era molto attiva la controinformazione contro queste cose. Contemporaneamente ci fu un ulteriore assalto dei fascisti, come spesso capita nella storia, fascisti e polizia vanno a braccetto. Ci fu un ulteriore assalto dei fascisti all'università, a riferire un'altra volta il compagno anarchico, che era uno dei più attivi ovviamente all'università. A quel punto ci fu un moto di indignazione popolare, migliaia di universitari assaltarono la sede fascista nel giro di mezz'ora. I compagni rintuzzarono l'attacco fascista e poi decisero di andare a chiudere i conti con i fascisti. Ci fu una giornata di scontri nel centro di Pisa, perché a quel punto era evidente che questi soggetti non avevano diritto, titolo, legittimità a stare in città. Durante questa giornata di scontri venne ammazzato, per far capire quanta era la violenza poliziesca, venne ammazzato uno studente che non c'entrava nulla. Venne colpito con un lacrimogeno in pieno volto e uno studente che non c'entrava nulla morì. Questo era il livello che c'era a Pisa e questo era il livello di mobilitazione antifascista. In quegli stessi anni, in quell'anno, ci fu anche l'episodio di Soriano Ceccanti. Nel Capodanno tra 68 e 69... i compagni pisani, Soriano all'epoca anche, poi passò a Lotta Continua, ma all'epoca era nel gruppo anarchico di Pisa che si era appena formato, il Pinelli, era un gruppo della Federazione Anarchica Pisana in cui erano i compagni più giovani, tra cui Franco Serantini, tra l'altro, di cui adesso parleremo, andarono a fare una contestazione insieme a altri compagni davanti alla Bussola, che era un locale della Versilia dove i figli dei ricchi, dei proprietari delle fabbriche in cui i compagni lavoravano, andavano a festeggiare il Capodanno. I compagni pensavano di andargli a ricordare che lo sfruttamento non va in vacanza neanche a Capodanno. La polizia anche in quel caso fece cariche violentissime, sparò ad altezza d'uomo e ferì e rese invalido per tutta la vita il povero Soriano Ceccanti, che all'epoca aveva 16 anni e oggi ne ha una cinquantina, se non sbaglio, tra l'altro, no, una sessantina, tra l'altro, per la sua passione, nonostante la sua invalidità, fa il ballerino di danza contemporanea. Un giorno avremo modo di invitarlo a Roma anche per salutarlo. In ogni caso, e quando gli arriva la notizia della morte sta molto male, insomma. Corrado Stagliano ci dice nel suo libro Il Sovversivo, che parla appunto della vita e della morte di Franco Serantini, che Soriano Ceccanti ha una crisi convulsiva proprio alla notizia, perché tra l'altro c'era una rete di amici che era anche esterna, diciamo, ai compagni anarchici. C'erano anche intellettuali, per esempio i coniugi Prampolini, poi c'era Luciano Della Mea, cioè una serie di compagni che comunque molto vicini, amici, insomma, che lo aiutavano anche materialmente, perché sì. Fra l'altro era un ragazzo che, a quanto si sa appunto da questo libro, dalla biografia che Stagliano traccia, molto amato, insomma, anche un po' per la sua storia, che adesso brevemente Franco, forse infatti, raccontiamo. Franco aveva una storia disgraziata come percorso familiare. Franco fu abbandonato in un befotrofio alla nascita, venne adottato a 2 anni, morì la madre adottiva quando lui ne aveva 6, venne riadottato dai nonni paterni, morì il nonno, si ammalò la nonna e fu messo in un istituto a 12 anni, in un istituto di suore, che lo mandarono da Cagliari, dove era nato, a Firenze. A Firenze lo buttarono fuori dall'istituto a 16 anni perché la regione aveva smesso di pagare la retta, e siccome i preti queste cose le fanno solo e soltanto per i soldi, buttarono un ragazzino di 16 anni per strada. La regione toscana, non sapendo dove mandarlo, lo mandò in riformatorio, in galera. Questo che non aveva fatto nulla, semplicemente era un poveraccio orfano, è andato a farsi 2 anni di galera in semilibertà perché non sapevano dove mandarlo, e in quegli anni si avvicinò ai compagni, prima a Lotta Continua, e per quello conosceva una serie di compagni tipo Pietro Della Mea, da non confondere con Ivan, che era un compagno molto attivo, Luciano Della Mea, sì, non Pietro, che era un compagno molto attivo a Pisa. E poi per una vicenda che merita di essere raccontata per far capire anche come facevano i compagni politica in quegli anni. Franco, con altri giovani compagni, era attivo con i mercatini rossi. Loro andavano in un quartiere popolare di Pisa, il CEP, un quartiere di case popolari, a vendere senza ricarico la merce. Loro compravano dei beni di prima necessità all'ingrosso, pagandoli ovviamente a prezzo più basso. Si faceva un po' in tutto anche qui a Roma in quegli anni. Sì, infatti non è un'esperienza solo pisana, era un meccanismo solidale di lotta contro il carovita attuato dai compagni, per cui in quei casi anche l'unione fa la forza, non potendo una famiglia proprietaria, per quanto consumi, comprare all'ingrosso, perché all'epoca c'erano delle quantità minime che erano abbastanza grandi, c'era bisogno di un anticipo in denaro, eccetera. I compagni se ne occupavano, facevano la spesa e rivendevano senza ricarica, quindi semplicemente recuperando i soldi che avevano speso, alle famiglie che così potevano permettersi a un prezzo molto più basso, si arrivava anche alla metà del prezzo di mercato del bene, potevano permettersi di comprare delle cose. Questo dava fastidio ovviamente a negozianti, ai fascisti e alla polizia, che ha cominciato a fare pressioni e sono arrivati in particolare al mercatino di Pisa, questo del CEP. Presente Franco, è arrivata la polizia, ha caricato, ha menato tutti. E su questo Franco, che fino a quel momento la direzione di lotta continua, all'epoca c'era Sofri che era uno dei leader nazionali, che siccome è di vicino Pisa stava lì e in qualche modo dettava legge dentro lotta continua, e non avevano dato una risposta adeguata a quella che era. I compagni volevano un'operazione di denuncia della gravità della cosa per una serie di ragioni, e lotta continua aveva deciso di non dare seguito, di non dare risalto a questo episodio di brutalità poliziesca. Franco e gli altri compagni uscirono a lotta continua e entrarono nel gruppo anarchico nel gruppo della Federazione Anarchica Pisana, e in contatto con i compagni. Per questo c'era anche questa rete di Pisa, indipendentemente dal fatto che è una città universitaria, è comunque una città che non è molto grande, i compagni si conoscono tutti tra l'altro, e c'era questo tipo di condivisione. Questa è la situazione a Pisa, sempre Franco con gli altri compagni, parlavamo della rete anche di intellettuali che c'era, e i compagni del gruppo di Pisa sono quelli che trovarono negli archivi il famoso manifesto di Almirante Fucilatore di Partigiani. Un compagno in particolare del gruppo, Pietro Vanni, che ha fatto poi lo storico e professore universitario, all'epoca militava nel gruppo, attraverso una ricerca di archivio trovò il manifesto firmato da Almirante della Repubblica Sociale Italiana, dove intimava la consegna delle armi a pena della fucilazione dei partigiani. All'epoca Almirante era il segretario del Movimento Sociale Italiano, cioè di quello stesso partito che a Pisa, come ho raccontato prima, si era comportato in maniera tanto criminale, tanto aggressiva, tanto feroce nei confronti di qualsiasi tipo di espressione sociale. È evidente che con una situazione del genere, quando si arriva alla primavera del 72, alla campagna elettorale, alle elezioni del 72, i compagni più che legittimamente decidono che un fascista, un boia, tra l'altro legato a filo doppio alla Repubblica Sociale Italiana, come Niccolai, non poteva fare un comizio a Pisa. Fanno un presidio nella piazza dove avrebbe dovuto parlare, la polizia per far parlare il fascista carica selvaggiamente i compagni. Le cariche si susseguono con una brutalità che raccontavo prima. L'anno precedente c'era stato uno studente morto e non c'entrava nulla. In quel giorno di 40 anni fa, in quel 5 maggio di 40 anni fa, le cariche hanno lo stesso tipo di virulenza. In particolare si accaniscono poi nel momento in cui c'è Franco, a un certo punto durante una carica, non si è mai capito perché, si blocca, la polizia lo prende, voglio dire, vedi un ragazzo mingherlino inerme con due occhialoni spessi, perché poi Franco era fortemente miope, per cui senza occhiali non ci vedeva assolutamente nulla, si blocca, cade per terra, lo buttano per terra e cominciano a massacrarlo a calci e pugni. Ci sono testimonianze che sono state poi confermate al processo di persone che gli urlava di fermarsi. Sì, c'è un commissario di polizia, c'è una testimonianza infatti, che riportiamo sempre dal libro di Corrado Stagliano. Avevano fatto cerchio sopra di lui tanto che non si vedeva più, ma dai gesti dei celerini si capiva che dovevano colpirlo sia con le mani che con i piedi, sia con i calci dei fucili. Ad un tratto alcuni celerini sono scesi dalle camionette lì davanti e sono intervenuti sul gruppo di quelli che picchiavano dicendo frasi di questo tipo: basta, lo ammazzate. Quindi addirittura ricordiamo che a Pisa arrivarono 800 uomini, 500 carabinieri, più il primo battaglione celere, che in una città piccola, come tu dicevi, sono veramente una cifra spropositata, e che appunto le cariche furono di una violenza incredibile. Le testimonianze che tu dicevi, che poi comunque l'inchiesta ci fu, ne parleremo, parlano appunto di uno studente, quattro studenti greci furono arrestati, e uno di questi era poliomielitico, fu brutalmente picchiato, un altro, ci sono testimonianze, ricevette un candelotto in piena faccia dentro un portone, perse dei denti, era irriconoscibile. Quindi comunque veramente un morto in quelle circostanze è stato veramente, possiamo dirlo, un caso fortuito, fra virgolette, fra 10.000 virgolette, insomma, potevano essere veramente di più. Sì. Questo tipo di brutalità poliziesca era motivata proprio dalla situazione che si era andata sviluppando a Pisa e dalla coscienza e dal fatto che poi i compagni in quella situazione, all'epoca erano anche molto attivi sul discorso della strage di Piazza Fontana, cioè c'era un milieu sociale con una presenza nei quartieri proletari, una presenza nelle fabbriche e l'intorno, c'erano dei consigli di fabbrica dove c'erano i compagni dentro. Spesso viene raccontato che gli anni 70 sono stato un movimento studentesco giovanile, no, ma ecco, per niente. C'era la Piaggio, la famosa Piaggio. C'era la Piaggio a Pontedera, ci stava la Saint-Gobain, c'erano una serie di fabbriche che, di cui i consigli di fabbrica normalmente partecipavano alle manifestazioni con i compagni. E hanno seguitato a partecipare negli anni successivi. C'era, in una situazione del genere, con i fascisti messi all'angolo perché a furia di aggredire gli studenti universitari, ovviamente soggetti del genere non avevano più legittimità in città, la polizia aveva deciso invece di chiudere i conti con questa marmaglia sovversiva che evidentemente infestava la città, e l'ha fatto nei modi che la polizia sa fare, cioè massacrando di botte chiunque incontrasse. La cosa è stata, nei confronti di Franco, è stata anche peggiore, perché oltre al massacro di piazza che prima si ricordava, c'è stato anche poi successivamente l'episodio in carcere. Dopo è arrivato un procuratore della Repubblica, ha visto questi studenti fermati completamente pistati per non aver fatto nulla, non c'era nessuna prova a loro carico, tant'è che poi i quattro greci fermati con Franco sono stati prosciolti. Voglio dire, non c'era nessun elemento, completamente coperti di sangue, tutti feriti. Franco, ripeto, uno fortemente miope, non c'aveva gli occhiali, non gli avrà potuto manco firmare il verbale. Questo non si è creato nessun problema di come fosse successo che questi erano stati massacrati. Il medico del carcere di Pisa ha detto che andava tutto bene. Questi sono i soggetti che le istituzioni mettono a tutela della legalità. Questo è, e Franco, dopo due giorni di agonia nel carcere di Pisa, muore. Il parallelo con Cucchi non è casuale. Sulla scheda di Cucchi è stato massacrato e ammazzato perché c'era scritto senza fissa dimora, per cui pensavano che nessuno sarebbe andato a chiederne conto a chi sfogava queste bestialità poliziesche nei suoi confronti. La stessa identica cosa sulla scheda di Franco, c'era scritto orfano, pensavano che nessuno, orfano, senza genitori, mandato addirittura ai riformatori perché non sapevano domandarlo, quindi proprio nessuno ce l'aveva. Non si erano resi conto, perché evidentemente l'umanità non appartiene a chi indossa una divisa, e evidentemente non si erano resi conto che Franco, quell'affetto a cui la sua storia disgraziata aveva negato una famiglia, l'aveva trovato tra i compagni, per cui immediatamente si sono mobilitati i compagni quando hanno visto Franco ferito, portato in cose, e poi quando hanno saputo che era morto hanno preteso l'autopsia, si sono costituiti parte civile nei confronti della polizia e hanno impedito che l'operazione di seppellimento rapido di Franco, gli volevano far funerare il pomeriggio stesso della morte. Sì, cioè, bisogna dire che ci fu un impiegato che, appunto, a cui arrivò questo ordine di trafugare la salma, possiamo dire così, no? Che disse: no, qui non c'è l'ordine del procuratore, questa è una morte comunque violenta, quindi in ogni caso. In ogni caso si rifiutò e quindi poi proprio per la rete dei compagni riuscì a trovare un escamotage giuridico, no? Che era quello per cui se sei orfano e comunque in un certo senso sei stato affidato a quelli che oggi chiamiamo servizi sociali, anche dei semplici cittadini possono appunto prendere una sorta di patrocinio e quindi costituirsi parte civile e poi chiedere l'autopsia, che fu in effetti poi fatta nei confronti di Franco, mettendo in evidenza che quella morte non era solamente accidentale. Ci richiama il famoso lavoro di Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico, sulla morte di Giuseppe Pinelli, e quindi poi la cosa fu archivata, fu avvocata dalla procura e sottratta, diciamo, al giudice di competenza, però comunque l'autopsia rimane agli atti ed è una descrizione assolutamente raggelante su quello che questo corpo aveva sopportato. Franco arriva infatti in caserma, poi in prigione, già visibilmente, le testimonianze lo dicono, provato, sta malissimo, lo dice comunque al procuratore che lo interroga, che è stato picchiato e che si sente male, ma questo assolutamente va nell'indifferenza totale, finché viene trovato in cella la mattina agonizzante perché una guardia carceraria si rende conto che non è uscito nemmeno l'aria e quindi capisce, però a quel punto ormai è tardi. Tra l'altro c'è da dire che su questo è stato fatto poi un processo proprio per la cosa dei compagni e per la volontà dei compagni, c'è stata la solita sfilata di reticenze, omertà di tutti i poliziotti su questa cosa, i silenzi imbarazzanti, il non so, non ricordo, non c'ero, se c'ero dormivo e così via. C'è stato un atteggiamento identico a quello che c'è stato nella Diaz, identico a quello che c'è stato, tra l'altro parallelo anche in quel caso con la Diaz, anche lì c'è un poliziotto che poi si rende conto della situazione, quello da Salvo Franco, che poi si dimette dalla polizia, così come nella Diaz c'è stato un poliziotto che ha parlato di macelleria messicana. Però il problema è proprio questo, cioè al limite ci può essere la mela sana in un cestino di mele marce, no? Quando, e non il contrario come puntano a far credere. Proprio le dimissioni di questo commissario, che prima parlavo di questi celerini che intervengono per sottrarlo a questo massacro, e poi arriva anche questo graduato, come lo descrivono le testimonianze, che è Giuseppe Pirono Monte, però non a caso poi se ne va dalla polizia, va a fare l'impiegato, quindi questo, cioè, è la dimostrazione pratica che comunque non è che c'è un modo diverso di gestire il potere in questo paese. Sì, ma infatti la polizia e l'ordine pubblico vengono gestiti in questo modo. Sto facendo dei riferimenti a episodi più recenti, come appunto la Diaz, come appunto Cucchi, possiamo citare Bianzino, Aldovrandi, Lonzi e tutta la lunga sequela di morti, uccisi, ammazzati da assassini in divisa, così come il caso della violenza carnale al Quadraro dentro la caserma. Non è che cambia. Questo tipo di situazioni, per far capire una cosa, questo tipo di situazioni non è che colpiscono noi perché siamo anarchici, perché siamo ribelli, perché siamo sovversivi, colpiscono tutti, può capitare a chiunque una cosa del genere. Una sera ti ferma la polizia, mandi a quel paese il poliziotto perché magari hai fretta, quello gli rode, ti massacra di botte e rimani impunito. Il meccanismo è questo, perché c'è un livello di omertà che non tiene alcun conto di alcun tipo di diritto, c'è un livello che neanche nella tra i mafiosi della Sicilia c'è tanto omertà, che abbiamo, e non c'è nessuna volontà da parte di nessuno di cercare di combatterla. A quelli che hanno ammazzato Aldovrandi gli hanno dato meno che al compagno che ha tirato un sasso il 15 ottobre, a quelli gli hanno dato 3 anni, hanno ammazzato una persona senza nessun motivo, quell'altro ha tirato un sasso per difendersi e non ha colpito nessuno e gli hanno dato 5 anni di galera. Cioè, capiamo qual è il livello di gravità della cosa, della cosiddetta legalità, della legalità. Normalmente la pena dovrebbe essere commisurata un'antisocialità dei comportamenti, e un poliziotto che in quanto tutore dell'ordine, in quanto delegato dallo Stato a esercitare il potere, se arroga di ammazzate le botte, è un compagno che in piena legittimità per la dichiarazione dei diritti dell'uomo si difende da una carica poliziesca tirando un sasso, voglio dire, evidentemente rappresentano un'antisocialità molto maggiore l'una e molto minore l'altra, ma una pericolosità per lo Stato molto minore l'una, perché ovviamente la violenza poliziesca è voluta dallo Stato, perché in un momento di crisi devi aver paura della polizia, devi aver paura del potere, perché il potere non ti si può comprare dandoti l'aumento, dandoti la cosa, non ci stanno più i soldi, quindi ti deve reprimere, ti deve schiacciare, quindi tu devi temere la polizia, così come a quel punto devi essere represso, se poco a poco ti ribelli hai il coraggio di alzare la testa e il coraggio di mandarli a quel paese. Che poi quello che sta succedendo tutto il contesto è uno, e quelli sono, ripeto, tra i motivi per cui convochiamo la manifestazione, per cui faremo la manifestazione sabato prossimo a Pisa, c'è anche questo, proprio perché nell'ottica del rialzare la testa si sono inventati che devono modificare i reati per reintrodurre delle legislazioni anti-anarchiche, perché diventiamo pericolosi solo per il fatto stesso di professare le nostre idee, anche quando non facciamo altro, solo per il fatto di raccontare queste storie, solo per il fatto di dire e di denunciare la brutalità poliziesca, te diventi talmente tanto pericoloso che in quanto anarchico ti devono reprimere, e adesso stanno rivarando le legislazioni anti-anarchiche. Sì, poi un'altra cosa di cui volevo parlare è che appunto viene fatta questa autopsia a Franco Serantini, io non ve la leggo, sono due pagine praticamente nel libro di Corrado Stagliano, però vi voglio leggere la testimonianza dell'avvocato Sorbi, che dice appunto: il libro per 11 anni è stato giudice istruttore a Cagliari e a Bologna ed ha preso parte per i doveri del suo ufficio a numerose perizie. L'avvocato esce sconvolto dall'obitorio. È stato un trauma assistere all'autopsia, veder sezionare quel ragazzo che conoscevo, un corpo massacrato al torace, alle spalle, al capo, alle braccia, tutto imbevuto di sangue, non c'era neppure una piccola superficie intoccata. Ho passato una lunga notte di incubi, almeno insomma qualcuno anche dall'altra parte. Ecco, una cosa di cui parlavamo prima della trasmissione, che va messa in conto, è, io direi, due aspetti, no? Uno, l'aspetto legislativo, due, l'aspetto, diciamo, societario. Dicevamo prima, prendendo il secondo, che nonostante la brutalità della polizia, che è la stessa di oggi, nonostante il pugno di ferro delle forze dell'ordine e dello Stato, di fronte, vogliono che non ci si esca, che non si esca nemmeno più di casa, tuttavia in quel tempo, e si è dimostrato nelle successive manifestazioni, non solo nell'attività di testimonianza nel processo contro i poliziotti rispetto all'uccisione di Franco Serantini, ma anche nelle mobilitazioni. Allora, a parte i compagni che erano molto attivi, ma anche c'erano dei pezzi di società, non propriamente compagni, diciamo dei sinceri democratici, che in qualche modo offrivano sponda perché questi casi di estrema brutalità e ingiustizia fossero, e appunto abbiamo il caso di Sorbi, abbiamo il caso di Stagliano, di tanti altri che hanno in qualche modo offerto sponda a chi voleva denunciare queste brutalità. Oggi questa cosa la vediamo un po' meno, per esempio rispetto al caso Cucchi o al caso Aldovrandi, casi che abbiamo citato poco fa, è chiaro che il blocco soprattutto dei giornali, parliamo della stampa, dei media ufficiali, è abbastanza compatto nei confronti dello Stato. Sul piano legislativo lo stesso, vediamo che oggi si stanno producendo delle leggi, cioè allora la brutalità c'era, uguale a oggi, però oggi ci stanno anche delle leggi, cominciano a produrre delle leggi che permettono a questa brutalità di essere legale, cosiddetta, no? Ecco, questo è un elemento in più, cioè lo Stato sta dando forma legale a questa brutalità della polizia, non solo perché il reato di tortura, per esempio, continua a non essere inserito nelle leggi italiane, nella giurisdizione italiana, perché nonostante i ripetuti inviti da parte della Comunità Europea che dice, visto che tutti i paesi europei ce l'hanno, il reato di tortura, cioè degli agenti di pubblica sicurezza nei confronti delle persone che prendono, appunto, dovrebbe scattare il reato di tortura molto più grave che non i maltrattamenti con i quali sono andati assolti appunto sia i pesi picchiatori della Diaz che tutti gli altri, ma anche perché, appunto, che dicevi tu, per esempio questo utilizzo dei reati associativi, adesso si sono inventati, ci sono gli anarco insurrezionalisti per cui costruiscono questa figura associativa, così come le figure associative di devastazione e saccheggio, così come le figure associative che stanno producendo di compartecipazione ideale ad un reato, vogliono dare figura legale a quella repressione che c'è sempre stata, che continua ad esserci, ma anche per averne appunto maggior forza, in quanto i picchiatori prima picchiavano, massacravano, uccidevano, però formalmente erano fuori della legge, adesso diventeranno appunto all'interno della legge. Questo è un fatto che, se non ci muoviamo per frenare questa ondata, diciamo, che va verso uno stato di polizia, è chiaro che ci troveremo estremamente più deboli e spiazzati. Ma infatti c'è da dire anche questo, All'epoca la società civile si attivò soprattutto perché si spaventò con Piazza Fontana, perché capì che cosa era successo a Piazza Fontana, capì che poi il tentativo di mettere fuori legge gli anarchici, il tentativo di ammazzarci come con Pino Pinelli, il tentativo di seppellirci con anni di galera e accuse infamanti di strage serviva poi a spianare la strada a uno stato dittatoriale. Il problema di fondo, per quello poi una serie di intellettualità sensibile si attivò per tutti gli altri casi di compagni che in qualche modo, dove si ravvisava, come nel caso di Franco Serrantini, questo tipo di situazione di sopruso. Il problema è che oggi è cambiata, oggi di fatto siamo in una situazione di democratura, cioè chi sta al governo è lo stesso, si può chiamare Berlusconi o Bersani o Monti, non cambia nulla, la politica economica fatta negli ultimi 20 anni in Italia è la stessa identica, abbia governato chi abbia governato, una politica antiproletaria, una politica contro i migranti, una politica contro gli operai, i salari sono crollati, la capacità di acquisto delle famiglie è crollata, uno non ha più diritto a piazza una casa, non ha più diritto a averci nulla, e l'hanno fatto indifferentemente i governi che si dichiarano di sinistra e i governi che si dichiarano di destra, perché la politica economica è sempre la stessa. A quel punto il problema della dittatura non lo vede più nessuno, perché tutti questi giornalisti, presentatori televisivi o altro, sono tutti corifei del potere, sono tutti, mangiano tutti alla stessa mangiatoia, sanno benissimo che se si dovessero porre fuori dal seminato denunciando come giusto che fosse i soprusi, le cose che accadono, la realtà, si troverebbero immediatamente esclusi dal circo Barnum dei media. Il meccanismo della tortura, dell'invenzione della cosa, allora la tortura non l'hanno messa, hanno deciso di applicare il reato di devastazione e saccheggio in Italia. Devastazione e saccheggio è un reato penale che serve quando ci stanno le guerre. Arriva l'esercito, fa la devastazione, saccheggio, quella è una cosa. In Italia, fino a pochi anni fa, devastazione e saccheggio è stato applicato solo per il Vajont. Denunciarono l'Enel per devastazione e saccheggio perché fece 3.000 morti, massacro, una regione. 3.000 morti, un paese raso al suolo. Quella è la devastazione, quello è il reato di devastazione. non tira un sasso a una vetrina. Che tu lo dai perché hai tirato un sasso a una banca. Tra l'altro, voglio dire, con quello che oggi le banche ci rubano, perché se è quello che gli ha rubato la vetrina la banca, ma quanti anni gli devono dare di galera? Perché devastazione e saccheggio sono 30 anni, capiamolo. Senti, allora adesso magari fra un attimo ci prendiamo un momento di pausa. Io volevo però ricordare che Serrantini fu poi processato nonostante fosse morto, perché mentre per il reato di oltraggio si estingue come il termine giuridico la morte del reo, per quello di resistenza aggravata che viene appunto mantenuto, questo non accade, quindi del processo però poi alla fine si arriva alla soluzione, chiamiamola così, perché la polizia comunque nelle sue testimonianze, come dicevamo prima, parlava appunto di, fra l'altro, di insulti da parte di Serrantino alle forze dell'ordine. Viene contestato in un interrogatorio che avrebbe gridato porci, e lui candidamente risponde, dice: io non uso questo linguaggio, cioè porci o qualche altra cosa, dice, io non uso questo linguaggio. Quando gli viene chiesto perché stava lì, ci si sta perché ci si deve stare, e questo un po' è diciamo un po' anche un'immagine sintetica ma efficace di quello che era questo compagno, no? Cioè, una cosa è giusta e io ci vado e basta, insomma, non c'è bisogno di spiegare altro. Calcoliamo sempre, questo vale anche ai fini storici, quando un compagno parla con un magistrato non è che sta dando un'indicazione politica, spesso cerchi di dire il meno possibile per non farti, questo, no, ha mantenuto nonostante fosse stato massacrato di botte, fosse moribondo, di fronte a un giudice ha tenuto la sua dignità piena da compagno, da anarchico, rispondendogli a tono e rivendicando quello che stava facendo di fatto, senza dargli elementi per essere ulteriormente accusato. Per cui era il 7 di maggio, giorno delle elezioni, e i primi risultati su un fondo alle prigioni c'era un compagno crepato là. Era 20 anni la sua età, c'era un compagno crepato là. Era 20 anni la sua età, solo 2 giorni prima parlava Nicolai, Franco era coi compagni, decisi più che mai, cascasse il mondo sulla città. Quell'assassino non parlerà, cascasse il mondo sulla città. Quell'assassino non parlerà. L'avevano arrestato Dungarno Gambacorti, gli sbirri dello Stato lo ammazzano dai colpi, rossa marmaglia dei capi. Se scendi in piazza si può morire, rossa marmaglia devi capire. Se scendi in piazza si può morire, e dopo nelle mani i zancai di Mallardo continuano coi cani, continuano a pestarlo, te le ho promesse 6 mesi fa. Gli dice Zanca senza pietà, te le ho promesse 6 mesi fa. Gli dice Zanca senza pietà, rinchiuso come un cane, Franco sta male e muore, ma arriva alla prigione solo un procuratore, domanda a Franco perché eri là. Per un'idea la libertà, domanda a Franco perché eri là. La libertà, poi tutta un tratto in fretta, da morto fai paura, scatta l'operazione, rapida sepoltura, è solo un orfano, fallo sparir, nessuno a chiederlo potrà venir. È solo un orfano, fallo sparir, nessuno a chiederlo potrà venir. Ma invece è andata male, oggi vi siete illusi, perché al suo funerale venire a pugni chiusi, era l'impegno, la volontà, che questa lotta continuerà, era l'impegno, la volontà, che questa lotta continuerà. Delle elezioni e i primi risultati giungono dalle prigioni, c'era un compagno crepato là, era 20 anni la sua età, c'era un compagno crepato. l'idea, la libertà. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one. Allora, siamo qui dai microfoni di Onda Rossa, stiamo parlando dell'assassinio di Franco Serantini e abbiamo al telefono una compagna del Nevroz di Pisa a cui chiediamo di dirci un po' quello che oggi è previsto in questo 40° anniversario di questo omicidio. Sì, ciao a tutti e tutte, sì, appunto come dicevi te, il 40° anniversario dell'omicidio di Franco Serantini da parte della polizia, che avvenne appunto qui nel carcere Don Bosco dopo che Franco appunto era stato arrestato. Oggi diciamo è proprio l'anniversario del giorno dell'arresto, poi Franco morì 2 giorni dopo nel carcere. Ricordiamo che Franco era in piazza con i compagni per protestare contro il comizio di Nicolai dell'MSI e appunto fu poi circondato dalle forze dell'ordine e portato in galera. Qui a Pisa la memoria di Franco è sempre viva anche grazie ai tanti compagni che negli anni hanno insomma scelto di tenerla viva sia nelle lotte e sia appunto come ogni anno cerchiamo poi di organizzare tutti insieme delle iniziative che si svolgono in questa piazza che è Piazza San Silvestro, ma che nella memoria di tutti in realtà si chiama Piazza Serantini, che è la piazza dove sorge il collegio dove appunto Franco viveva quando era qui a Pisa. Per cui appunto oggi ci ritroviamo in questa piazza in un momento all'inizio più di socialità, quindi un pranzo con poi dopo un coro appunto che canterà dei canti di lotta popolare e poi intorno alle 17 ci sarà una tavola rotonda che riguarderà proprio gli omicidi di Stato, che come sappiamo sono qualcosa di estremamente attuale, per cui verranno affrontati i casi di Franco per l'appunto, di Carlo Giuliani e poi Mastro Giovanni. E poi in serata ci sarà un concerto invece in un'altra piazza, il concerto di Daniele Sepe dedicato a Franco. Niente, quindi questo è un po' l'organizzazione appunto di oggi qui a Pisa. Quello che teniamo diciamo a ricordare innanzitutto che come molte di queste storie Franco appunto è stato ucciso 2 volte, una volta appunto dalla polizia e poi dall'ingiustizia delle istituzioni, come purtroppo avviene spessissimo. Qui a Pisa appunto la memoria di Franco è viva, io sono una compagna giovane e per questo devo ringraziare i compagni più grandi, i compagni anche della generazione di Franco che tramite le lotte, tramite i loro racconti, tramite una quotidianità in cui ci si batte contro le ingiustizie sociali sono riusciti appunto a trasmettere questa memoria anche a noi compagni più giovani. Approfitto di questa occasione per raccontarvi un piccolo aneddoto. Tra le tante lotte che portava avanti Franco c'era la sua partecipazione a questo mercato rosso negli anni 70 che si svolgeva nel quartiere popolare del CEP, e credo sia indicativo quello che è avvenuto quest'anno alla fine di marzo, dove un gruppo di compagni, di giovani compagni di questo quartiere che piano piano stanno crescendo, che si sono organizzati in un comitato, ha organizzato 3 giorni di riappropriazione di un luogo nel proprio quartiere, e all'interno insomma di questi 3 giorni c'erano diverse iniziative, tra cui una mostra proprio su questo mercato rosso, quindi una memoria attiva che si cerca di mantenere nella nostra città. Quindi mi sembra importante che soprattutto a Pisa questa memoria non sia assolutamente mancata, e che comunque tutti gli anni c'è, forse quest'anno il 40esimo è particolare, però tutti gli anni Franco Serantini viene ricordato. Sì, tutti gli anni, ma anche nella quotidianità. Poi a Pisa appunto c'è la biblioteca Franco Serantini, che anche quello è un modo per mantenere viva la sua memoria, una biblioteca storica. E, del resto appunto sappiamo bene che ieri lo scrivevamo proprio, che intorno al passato e i modi che si hanno anche di ricordarlo, niente poi è neutrale. Indicativo penso il fatto che proprio la biblioteca aveva fatto una raccolta di firme per riuscire a far intitolare veramente questa piazza, che appunto per i pisani ormai è Piazza Serantini, proprio a Franco, e quindi dal basso erano state raccolte migliaia di firme, invece le istituzioni poi si sono opposte a questa possibilità. Quindi anche i modi di ricordarli, i modi di mantenere viva questa memoria non sono assolutamente neutrali, come del resto non lo era Franco quando scendeva in piazza. Ecco. Certo, e poi soprattutto non è assolutamente retorica il miglior modo per ricordare questi compagni, che purtroppo nessuno, compagni e compagne, il 12 maggio c'è appunto il 35esimo anniversario dell'assassinio di Giorgiana Masi qui a Roma. La maniera migliore certamente è quella di continuare a lottare. Mi sembra anche importante una delle iniziative che avete in campo oggi, che è quella appunto di ricordare anche che questo tipo di morti, e soprattutto gli affossamenti, chiamiamoli giudiziari, che seguono, sono una costante. Da questo punto di vista non è cambiato niente. Sì, anzi, purtroppo, anzi, sentiamo ogni giorno storie di questo tipo, e purtroppo sta poi a noi. Di certo non abbiamo fiducia nel fatto che la giustizia possa veramente fare il suo corso, perché purtroppo insomma sappiamo come vanno queste cose. Però noi non ci scoraggiamo assolutamente, anzi, proprio il ritrovarci tutti insieme, tutti i vari pezzi di movimento qui a Pisa per giornate come queste, è quello che ci dà più forza e ci dà fiducia nel proseguire. Va bene, allora grazie e buona giornata. Grazie a voi tutti. Ciao. You have loved me with energy. E allora concludiamo questa parte sul ricordo di Franco Serrantini, intanto ricordando appunto, oltre alla manifestazione che c'è oggi a Pisa, l'abbiamo sentita dai compagni e le compagne di Pisa, anche quella che ci sarà appunto sabato prossimo. Sì, sabato prossimo, il 12 maggio, a Pisa c'è una manifestazione nazionale anarchica, la partenza sarà alle 3 di pomeriggio, alle 15, da Piazza Sant'Antonio. Piazza Sant'Antonio è a 300 metri dalla stazione, praticamente si esce, ci si arriva col treno. Tra l'altro i treni da Roma sono regionali, costano poco e ci si riesce ad andare tranquillamente. 18 euro costa. Sì, no, poco ovviamente, relativamente poco. Rispetto, infatti, rispetto a questi treni che ci mettono lo stesso, che poi si fermano ma ti fanno pagare un sacco di soldi in più. La manifestazione, invitiamo i compagni a partecipare alla manifestazione, ricordo, è una manifestazione che viene fatta in memoria di Franco Serrantini, ma è una manifestazione che viene fatta soprattutto con un occhio all'oggi, al discorso delle politiche repressive e messe in campo dallo Stato contro gli anarchici e contro qualsiasi tipo di insorgenza sociale, alle politiche antiproletarie praticate dallo Stato nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei precari, dei disoccupati, delle donne, dei migranti, che oggi sono quelli che stanno pagando l'intero prezzo della crisi. Su questa cosa gli anarchici di tutta Italia si sono dati appuntamento su una indicazione data agli anarchici toscani per la settimana entrante, ci troveremo lì e invitiamo i compagni e le compagne a partecipare alla manifestazione, eventualmente contattandoci al Cafiero, www.cafiero.org, il sito del gruppo, se volete venire su, oppure semplicemente prendendo il treno e venendoci, visto che è abbastanza facile arrivare a Pisa. Franco, sei morto, stai, sono qui con voi, ha detto son qui con voi. Ti han massacrato quei bastardi, ti han fatto morire, non è bastato fermarmi il cuore, infatti sono qui, mi vedi, sono qui. Quello che mai potranno fermare è ciò per cui lottiamo, e dai picchetti ogni mattina vi darò una mano, io vi darò una mano. Sacrato quei bastardi, ti han fatto morire, non è bastato fermarmi il cuore, infatti sono qui, mi vedi, sono qui, quello che mai potranno fermare è ciò per cui lottiamo. E dai picchetti ogni mattina vi darò una mano, io vi darò una mano. E sorridendo sera in vita mi stava lì a guardare, non era morto Serantini, voleva ancora lottare, voleva ancora lottare. E da Palermo a Milano in fabbrico, in cantiere, ovunque noi si lotterà, Franco potrem vedere, Franco potrem vedere. E da Palermo a Milano in fabbrico, in cantiere, ovunque noi si lotterà, Franco potrem vedere, Franco potrem vedere. Il nostro maggio si leva dalle case, si fanno nelle strade le nuove barricate. Appaiono tra i fuochi i volti illuminati, lampi improvvisi scoprono i proletari armati. Lenta dischiude il maggio la nuova primavera, insorgono i quartieri, la polizia dispera. L'Egip dei poliziotti mandati dallo Stato invadono le strade e rimordono il selciato. La situazione è calma, dice la polizia, ma gli universitari sono già in periferia. Già spiegano alla gente tutto quello che è successo nella città di Pisa, il fascismo non ha spazio, gli scontri si susseguono a Lungarno, gamba corti con gli studenti al fianco, i proletari sono insorti, mitra spianata in mano, i fascisti celerini, la polizia difende il comizio dei missini, ma la città non vuole sentire quei vigliacchi, aumenta la rivolta, si susseguono gli attacchi. La polizia ci carica, sta riprendendo forza, le bombe lacrimogene fa stringere la morsa, arriva di rinforzo la celere da Roma, i paracadutisti, gli agenti di questura ci incalzano picchiando, ci ammazzano di botte, lasciano sul marciapiedi le nostre bandiere rotte. È scesa ormai la sera sulla città di Pisa, la nostra primavera non ha più via di uscita, ognuno torna a casa, le ossa massacrate, triste un lampione illumina le nostre barricate, c'è chi su questa lotta ha posto le speranze per un domani nuovo, privo di sofferenze, solo una traccia resta in mano agli assassini, la ciocca di capelli di Franco Serantini. Il movimento è sciolto, la storia si conclude, si ingrossa il sindacato, la lotta si riduce, ogni studente entra in un nuovo gruppetto, il maggio 68 l'abbiamo messo dentro al cesso, ma è di Franco la voce che grida tra le botte, il suo viso sincero illumina la notte, ci dice sorridendo non importa la mia sorte, da oggi si combatte vittoria o morte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Allora, ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione, comunque ne parleremo anche la settimana prossima, come parleremo soprattutto dell'appuntamento che è stato dato qui a Roma il 12 maggio alle 15 a Ponte Garibaldi, proprio per ricordare un altro omicidio rimasto anche questo senza colpevoli, che è l'omicidio di Giorgiana Masi. A questo proposito vogliamo leggere il comunicato che è uscito dalle due assemblee che si sono tenute proprio qui a Roma in preparazione di questo appuntamento. Per non dimenticare Giorgiana Masi, per la solidarietà ai compagni e alle compagne arrestate. Il 12 maggio del 1977 le squadre speciali dell'allora ministro dell'Interno Francesco Cossiga assassinavano Giorgiana Masi, compagna femminista in piazza insieme a tante e tanti altri, sfidando il divieto di manifestare nell'anniversario della vittoria referendaria sul divorzio. Le forze di polizia risposero sparando candelotti lacrimogeni e colpi di arma da fuoco, picchiati e maltrattati anche fotografi, giornalisti e passanti. Pochi minuti prima delle 20, durante l'ennesima carica della polizia, due compagne furono raggiunte da proiettili sparati da Ponte Garibaldi, dove erano attestati poliziotti, carabinieri e agenti in borghese. Elena Scione rimase ferita a una gamba. Giorgiana Masi, 19 anni, studentessa del liceo Pasteur, venne centrata alla schiena. Morirà durante il trasporto in ospedale. Le chiare responsabilità emerse a carico di polizia, questore e ministro dell'interno porteranno il governo, con la complicità vergognosa del Partito Comunista, a intessere una fitta trama di omertà e menzogne. Cossiga prima elogiò in Parlamento il grande senso di prudenza e moderazione delle forze dell'ordine. Poi fu costretto a modificare la propria versione dei fatti, ammettendo la presenza delle squadre speciali, ma continuò sempre a negare che la polizia avesse sparato, pur se smentito da testimoni, foto e filmati. L'inchiesta per omicidio si concluse nel 1981 con sentenza di archiviazione del giudice istruttore Claudio D'Angelo per essere rimasti ignoti i responsabili del reato. Questa è in breve la storia di quella giornata da cui sono passati 35 anni. Da almeno 15 anni non si svolge una manifestazione nazionale in ricordo di Giorgiana, l'ultima fu nel 1997. Da almeno 5 anni non si svolge neanche più un corteo cittadino. In questi ultimi tempi assistiamo a una crescente repressione e violenza dello Stato contro movimenti e individui, diversi per pratica e ispirazione, ma tutti mossi da una critica alla società esistente. Il numero delle persone arrestate, rinchiuse e trattate perché socialmente non disciplinate sale di giorno in giorno. A dimostrazione che alla brutalità delle forze dell'ordine è sempre seguita la solerte repressione della magistratura. Dalle 10 condanne per devastazione e saccheggio per il G8 di Genova 2001, con le quali sono stati dati fino a 12 anni di carcere, agli ultimi arresti del 15 ottobre del 2011, condannati a pene esemplari per il semplice reato di resistenza aggravata. Anche alle lotte contro la nocività e al movimento NoTav hanno presentato il conto. Centinaia di persone ferite, alcune anche in maniera grave, truppe d'occupazione, espropri, per non parlare degli ultimi arresti e denunce. Nonostante questo, noi vogliamo continuare a metterci in gioco in prima persona. Sabato 12 maggio, ore 15, appuntamento a Ponte Garibaldi. Le compagne e i compagni. appunto le leggi.